All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Nuova, grande puntata assieme anche questa settimana con gli amici della cena dei regini. Seguiteci, ilbach.it, cliccate la cena dei regini per rivedere tutte e tre le splendide stagioni. Assieme a cena di ilbach.it per commentare anche questa puntata se avete qualcosa da suggerire. Come hanno fatto questa settimana Cristina e Giorgio, che mi hanno mandato una, a proposito di la cura, una cura per la tosse che assolutamente devo provare a casa. Mi hanno dato questa ricetta che permette di creare delle pastigliette con dei rimedi naturali, una cosa molto carina. Mi applicherò questa settimana, vediamo di migliorare un po' la situazione. E ragazzi, questa settimana e la prossima, grandi cene, grandi appuntamenti vecchi e nuovi. Questa settimana la Jam Session il venerdì riprende, il palco aperto per chi vuole venire a suonare, esibirsi liberamente sul palco dell'House. Qua grandi spettacoli, grande improvvisazione, una serata dedicata all'arte fatta così sul momento, così una cosa improvvisata come la parola banana, ad esempio banana, uno dice banana e l'altro inizia a suonare ispirandosi a questa cosa e chissà cosa viene fuori. E poi settimana prossima, martedì 24, avremo ospite qui alla cena dei regini sul palco dell'House Han, questo giovane talento regino che viene a presentare il suo progetto musicale e che quindi farà un unplugged delle musiche, ci parlerà di lui. Quindi Han ospite alla cena dei regini martedì 24 e sabato 28, sabato successivo, Luca Mercurio, questo grande artista barese particolarissimo, due esperienze musicali le più, diciamo, disparate, più grande esperienza anche del mondo del teatro un po' particolare, e verrà qui a parlarci di lui, a fare una cena assieme, nostro ospite per una serata, e anche lui farà qualche pezzo unplugged veramente suggestivo, insomma. Quindi ragazzi, continuate a seguire il back.it per vedere tutti gli appuntamenti. Gilda gli artisti, gildartisti.org per vedere e potersi anche gildare e quindi partecipare a tutti i progetti che gravitano intorno a questo posto, ragazzi, assolutamente è da fare. E noi torniamo tra poco, piccolo spazio musicale, bentornati, c'è la chioccia del back.it per commentare adesso un pensiero liberamente tra quello che state in questo momento farfugliando nella vostra mente. Noi torniamo da un piccolo spazio musicale alla cena dei regini. Song been a hot dog, cash me on a bit, make it hot dog. I'm going in for the bread like a hot dog. Sweat on the track when I lace, no race, dog. Dog, I'm coming for everything. Can't wait to get mine, send the bottom of everything. Started from the bottom, but I ain't never got there. Waiting for a long time, shit crazy out, shit. There's a bar to be on the line. I'm about mine, still I'm dying on the line. Before you hit me with a federal line, I'm aiming for the branded tap money, no federal line. Kill tracks when I hops in. I'm a grown man, never been a part C. Born in the rain, still hear it dropping. Feel the vibe, come on, let the track sing. All sing, my sing. Life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there. All my life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there. All right, G to the F still. Over in the game, just wanna sell my own story. But ditch on the fame, wrapped up in all these illusions. Call me David Blaine. When you're chasing dreams, milestones could drive you insane. All my life, didn't try to belong. I chose to give my own opinion, what's right and what's wrong. I'm human, always wanted some more. Been to Bangkok, now I wanna do Singapore. Monk told me don't rush it. Life give lemons, make lemonade of it. Andrew told me bro, God is in control of it. Me, honestly, I don't like the pace of it. Man, I didn't follow my dreams. It's like I'm almost there yet I ain't feeling that cream. Damn, this feel of discontent bad is killing me. This song my way to therapy me. All my life, I've been waiting, fighting hard. Ragazzi, bentornati alla cena dei Regini, le notizie dalla strada, l'angolo con le notizie più particolari, più curiose che noi andiamo a scovare per propinartele in questo momento come se fossero utili alla tua vile esistenza. cena@back.it per commentare queste notizie assieme, perché magari c'è qualcosa che vuoi condividere con noi ed è bellissimo che sia così. Scrivi cena@back.it. Iniziamo da una grande notizia, grandissima notizia per gli amanti della dieta mediterranea e non. È stata creata, diciamo così, una pasta che non fa ingrassare, perché si sa che il problema della pasta è che un attimo rimodella i fianchi, diciamo, comunque dà questo inconveniente. Però adesso c'è questa nuova tipologia di pasta, addirittura realizzata in laboratori dell'Università Cattolica di Piacenza, perché i ragazzi invece di studiare creano pasta. Sono impastate con l'acqua santa. Che bello, mi sa che te. Ed è, no, invece è un prodotto alimentare a base di farina di fagiolo, quindi hanno risolto così il problema annoso della pasta che fa ingrassare. Quanta pasta, cioè, è un problema importante, perché farina comunque... Farina di fagiolo, dove la compro? Quanti miliardi costa? Dei produttori di fagioli, così ti devi impegnare. È il responsabile, diciamo, il direttore di questo istituto ha detto che i risultati sono molto promettenti, perché comunque permetterebbe di creare tutta una nuova linea di prodotti, diciamo, dietetici, però comunque alternativi, pensa, evitando questo problema e tanti altri legati comunque al nucleo, diciamo, della pasta. Bella, esce la Barilla Light. Che penso già ci sia in maniera molto propinatrice, cioè molto... Però effettivamente è una grandissima svolta, cioè voglio dire, poter mangiare quanta pasta vuoi senza ridurti, tipo Laura Pausini prima dei concerti, pensa che bello. Ma ragazzi, sempre in tema di cibo che fa ingrassare o non fa ingrassare, esattamente la notizia opposta: antitrust multa 4 produttori di patatine fritte con 1 milione di euro per pubblicità ingannevole. Cioè, questi qua hanno spacciato le loro patatine come dietetiche e o salutari e o fatte con metodi artigianali, e quindi l'antitrust li ha, diciamo, pizzicati con la patatina in mano, come si suol dire, e gli ha fatto 1 milione di euro di multa. Questa è una patata costosa, una patata bollente, dire questa cosa qui. Perché chiaramente tu hai questa mega industria di patatine fritte e le spacci come una cosa artigianale, addirittura di alcune pubblicità. Quindi davano questo taglio molto low profile, invece essendo chiaramente così non è. 1 milione di multa alle patatine fritte. È importante, perché ci sono anche altre pubblicità, ad esempio una famosa crema alla nocciola. Che si vede tipo il calciatore super pompato che dice: io la mattina senza questa cremosa alla nocciola non vado avanti, invece anche quella dà degli effetti un po' pausiniani. Quindi un altro cibo che dovrebbe essere tassato, il cibo che noi vediamo artigianale ma non è, come ad esempio da noi reggitani le salsicce, che noi chiaramente le facciamo in casa, però comunque sono grassottelle, diciamo, il cosiddetto satizzo, come lo chiamiamo noi, la cosa. E poi tanti altri cibi che però dovrebbero essere non vietati per legge, però comunque rivisti in maniera particolare. Ragazzi, andando avanti, ci sono notizie positive e notizie negative, a volte le cose un po' si fondono tra di loro. È successo a questa signora australiana, che tu la mattina ti svegli, vai in banca, metti il bancomat, controlli il tuo conto, pensa se vedessi 10 milioni di dollari australiani in più sul tuo conto, che sono circa 7 milioni di euro di lire. Secondo me in Italia non c'è abbastanza spazio per tutti quegli zeri, che comunque abbiamo, sono tarati per il pubblico italiano, tarati per il pubblico italiano, non è programmato per metterti. Questa signora si è svegliata un giorno con 10 milioni di dollari australiani in più, causa di una di un difetto, diciamo, del suo bancomat, che è molto interessante questa cosa. Quello che racconta lei è che ha vissuto nel terrore, perché comunque 10 milioni di dollari, fantastico, se l'è spassato un pochettino, però comunque giustamente dice aveva sempre paura di essere derubata della carta o di finire uccisa o addirittura rapita, perché comunque dice così tanti soldi che potrei essere vittima. Ma di qualche finta, non dire. No, una notizia verissima. Fosse stato per me, gli avrei presi tutti e sarei sparito per sempre. Non mi avrebbe mai più visto nessuno. In questo momento sarei, non lo so, a Cuba. Sembra un'ombra. No, è vero. Questa signora australiana, la cui identità è stata rivelata in Sulamb, ha fatto questa scoperta. Poi la banca gli ha spiegato che non era un, diciamo, il denaro reale, era solo un difetto del bancomat. Però comunque lei era convinta di avere questi 10 milioni in banca. Secondo la banca il denaro non è mai stato disponibile, però nel bancomat risultava, quindi non so se c'è stata una maniera di incrociare i dati. Se poi avesse 10 milioni di euro lui scomparirebbe alla faccia della terra. Quindi ti rifai le impronte, vedi, in una spiaggia dei tropici tu sei così con 12 milioni accanto a te c'è lei. Allora non puoi scomparire, anche tu scompari, viaggio affollatissima assieme a tanti imprenditori italiani. Mi comprerei un isolotto e due sdraio, una per me e una per i soldi. Giusto, e più resti. No, io berrò i miei soldi. Beve soldi. Macchinette. Bellissimo. Avere tanti soldi. Fare anche una bella ditta e comprarti di quello corro lì. Beh, si compra. Perché sanno che tutti hanno quello di trovato lì, tutti vengono lì da te. Si compra un'isola. Allora no. Non è che me la compro, me la faccio costruire, quindi nessuno lo sa. Ecco, allora cioè, per saperlo dovranno controllare con i satelliti e capire dove sono. È molto italiana questa cosa, c'è una persona che in realtà l'ha fatto. Un famoso politico italiano ha creato una baia con la sua megaville. Cioè, penso tu prendi esempio da questi personaggi. Così tutti sono sempre importante. Invece non bisogna dire mai niente. Guardate come siamo tutti. Ma una volta, fino agli anni 80, uno diceva: c'hai questi soldi? Io no, compro aerei. Adesso vado tutti, no, nessuno deve sapere, no, lo Stato soprattutto. No, ma secondo me non si può neanche sbagliare. No, fai benissimo. Perché se uno ha i soldi così, è meglio non dirlo. Tra l'altro, tu sai che notizia di oggi che hanno messo la tassa sui contanti. Perché comunque vogliono tracciare anche i contanti, eccetera. Quindi se tu hai 10 milioni di euro, metteranno la tassa perché hai 10 milioni di euro. E poi dovrei pagare dei tasse, quindi sparire assolutamente. Direi che è una cosa molto moderna. E ragazzi, c'era chi aveva 10 milioni di euro, 10 milioni di euro guadagnati una maniata, diciamo un po' mariuola, un boss della Camorra. E lui, il suo sogno l'ha realizzato come? Costruendosi la casa del Grande Fratello. Una storia, ragazzi, è una storia che non so se è tra il tragico, il comico e anche un po' comunque il romantico. Lui ha sempre sognato di andare, di partecipare al Grande Fratello. Da boss non poteva perché ovviamente aveva questo ruolo istituzionale nel parastato italiano, quindi non poteva. Allora si è costruito una casa che è esattamente uguale a quella del Grande Fratello e viveva là dentro, con tanto di piscina esterna, quegli esterni da casa del Grande Fratello, insomma, eccetera. Tutto doveva essere identico a quei sogni, addirittura anche i bagni rifatti, gli esterni curati, tutto. Questo vedi non lo dice, ma penso che sia di quest'anno, quindi 2015, sarà quella del 2014, immagino. Non saprei neanche esattamente. La cambierà anche l'anno prossimo. Ma penso che siano. Che sia. No, non è detto che sia in carcere, quindi attenzione. La cosa bella è che alcune persone della del luogo sapevano questa cosa, sapevano dove stava e lui continuava a vivere serenamente. No, no, adesso è abbastanza dentro, insomma, in carcere, però comunque era diventato in quella zona di Milano famoso perché si era creato questa replica della casa del Grande Fratello, e i sogni che si avverano anche quando fa un certo tipo di vita, eccetera, anziché andarsi a nascondere ti fai la casa del Grande Fratello. Tra un omicidio e l'altro c'è sempre bisogno di rilassarsi. C'è un tocco romantico in questa notizia che è assolutamente interessante. Poi la casa del Grande Fratello, la tecnologia, queste cose, la modernità, ragazzi, circondarsi di queste cose. Anche sì, sì, sì, sì, doveva essere tutto uguale alla casa del Grande Fratello. Il sogno, realizzare il sogno. La moda di questo, diciamo anche decennio ultimamente, di questa tendenza tecnologica è il selfie. È diventato comunque, abbiamo detto diverse volte, la tendenza più in voga, la mania, la cosa, eccetera. C'è una versione già 2.0 del selfie, che è il selfie in 3D. Ah, puoi farti il selfie in 3D non rivolgendosi il bastone. No! Oltre il bastone, oltre le cose, c'è il selfie in 3D, cioè vai presso questi negozi affiliati a questa azienda tedesca grandissima che ha fatto già diverse succursali in tutto il mondo, paghi un rapporto di quelli che dovrebbero essere dai 95 ai 395 dollari per farti questo selfie in 3D, loro ti mettono in questa specie di stanza con un numero spropositato pari a 54 Canon EOS Rebel T5i, quindi queste macchine fotografiche che ti fanno questa foto contemporaneamente su quel modello creato con queste fotografie contemporanee. Loro riescono a creare praticamente la tua versione in 3D. Per una statuetta di 10 cm paghi solo 95 dollari. Con 395 dollari puoi avere una bambola praticamente di dimensione di una Barbie. È fantastico. Di te stesso. Una Barbie di te stesso. Che te ne fai? Che tristezza. È il selfie in 3D, è la grande moda di questo decennio, capisci? Però ce l'hai in 3D, cioè. Non serve. È smodabile almeno. Cioè, è smodabile, non c'è l'action figure di te stesso. No, io penso che sia fissa, perché comunque le foto riprendono l'attimo e sarai. Pensa se vieni male in quella foto. Là sono cavoli, spendi 395 dollari per una foto in cui sei venuto male con gli occhi chiusi. Questo era un nuovo modo per fare i modellini per i personaggi dei film. Può essere anche una cosa utile. E pensate, ha avuto un successo strepitoso, ha già filiali in tutto il mondo, New York, Los Angeles, Tokyo, la più vicina a quell'Italia, a Düsseldorf addirittura, e che comunque ha dietro casa mia centinaia di clienti che vogliono la loro replica in 3D, perché giustamente bisogna anche la metti in salotto e ti santifichi col tuo, con i tuoi ospiti in salotto, metti la tua statua così e la santifico ogni giorno. Io la trovo una cosa, a dir poco, fantastica. Ma ragazzi, parlando di tecnologia, beh, io la mettevo là dietro il palco dell'house e avevamo risolto la mia replica. Ragazzi, parlando di tecnologia, l'avevo detto anni un paio di anni fa, adesso si è realizzata, non serve più. Io dissi prima di morire, l'ultima cosa che si dirà in letto di morte sarà la password dei social network. Cioè, una volta era un pensiero poetico, c'era cioè adesso, segreto 85, cosa, 91. E invece no, Facebook ha risolto anche questo problema. È possibile designare un erede virtuale del proprio profilo. Che cosa fantastica questa! Cioè, se tu muori, c'è questa persona che può riscattare il tuo profilo e decidere se chiuderlo, gestirlo come tua pagina funeraria praticamente, fare le commemorazioni virtuali, eccetera. È importante, è quello che resta di te, è la pagina Facebook, e quindi è giusto che comunque, tra l'altro non può andare a modificare il tuo profilo, le cose fatte, perché giustamente non puoi inficiare la tua memoria, non la può ottenebrare, però comunque può gestire il profilo e gestire la tua memoria, diciamo, virtuale, fare il tuo piccolo come si direbbe, quel santuario virtuale, no? Dove la gente va a condividere le cose. Una persona a cui dare sicuramente la password potrebbe essere il tuo cane, nel tuo caso a me ovviamente. Sì. La fine, come si suol dire, no, oppure il cane è giusto, l'unico fedele. Il cane che dovrebbe una grande gestione del profilo. Sofì, non è che c'è pure il profilo, adesso è fuori che sta facendo la sua caccia serale, giustamente ognuno alle sue. No, in questo momento no, però comunque si sta dedicando, giustamente, Sofì è la mascotte dell'house, lei deve vegliare su tutta la struttura. Ragazzi, entriamo quasi nel bollino rosso, questo è un po' arancione, una grande notizia dal Giappone: un giovane ragazzo giapponese ha svoltato la sua vita sentimentale, diciamo che non è ormai sfiduciato dalle matrimonio con un cuscino tra 3, 2, no, uno. peggio ragazzi, il cuscino l'abbiamo già affrontato, cioè già si sa, cioè, questo ragazzo di giapponese si è fidanzato con la sua doccia. Cosa? Ha deciso di fidanzarsi con la sua doccia, l'ha agghindata con una parrucca, una maschera, dei palloncini e un body per renderla il più umana possibile, il tocco di classe, anche gli occhi finti per poterla guardare negli occhi, quindi questo tocco di grande romanticismo alla giapponese, ha scelto di fidanzarsi con la sua doccia, ha realizzato anche le braccia con dei fili per poter essere abbracciabile. Ha creato la cosa inquietante è che la doccia ancora funziona, quindi dalla bocca per farsi la doccia, dalla bocca della sua fidanzata virtuale esce fuori quest'acqua e lui si diverte. Mamma che la bocca. Infatti si diverte a riprendersi con questa sua nuova fidanzata, questa doccia agghindata così. Lui ha 19 anni e cosa promette benissimo nella società giapponese. Promette benissimo. Ma io non comprendo come i giapponesi non siano ancora in via di estinzione. Hanno molte docce, quindi riescono a riprodursi così. Non funziona. Daniele ha fatto un tour di palloncino. Ah, vedi. Però comunque amichevole, cioè, senza partire. Con lunga come il corpo. Vedi, ai giapponesi piace questo. No. Ragazzi, non siate maliziosi, non siate troppo maliziosi. Comunque, grande successo. Mi sono dimenticata di farlo vedere. Cosa? No, grazie. Domani viene e te lo faccio vedere. Ah, perché ancora il pop è a casa. Sì, è diventato mobile. Fantastico. Quindi Giappone c'è la doccia, a Reggio c'è un polpo di palloncino. Fai sì che fai, non sa che trovi. Ha detto anche mia figlia, porta, che vabbè, non sono dimenticata. Lo vedrò. Se non mettevi di attaccata da ci stava. Facciamo la foto e la condividiamo sulla pagina della trasmissione, così comunque sarà sì, bello anche a vedere. Non l'ho fatto vedere. Ne ho fatti tre, non uno, tre. Alla grande. Ragazzi, quindi se vi va male, comunque vi potete fidanzare con un oggetto a caso. Lui ha scelto una doccia, oppure potrebbe essere un cuscino, oppure no. Quella è banale. No, perché è industriale. Invece il sapore artigianale che fai da te. Stasera quando andiamo a casa, apro la sala, loro sono di là, no? per vedere il polpo. È giusto, è giusto, bisogna condividere anche non questa cosa. Tuoi. Ognuno, se vi va male, createvi un amico di immaginario. No, una volta c'erano gli amici immaginari, che erano molto letterari, invece adesso bisogna dargli una dimensione anche concreti, con dei palloncini o cose simili. Non funziona. Non funziona, ragazzi. Questo ragazzo giapponese è felice così. È fidanzato con la sua doccia ed è felice così. Ma ragazzi, restando nel tema delle relazioni spinose, particolari, le relazioni, le tentazioni, cosa è adesso bollino rosso? Assolutamente, assolutamente. Cosa è di grande attualità ultimamente? Questo film che ha creato scompiglio in tutto il mondo. No. Ragazzi, attenzione, perché secondo lo psichiatra italiano Michele Cucchi, quello che fa i rotoli, no, Michele, no, Michele Cucchi, come cuccare, Cucchi. Ha detto che il film dal film scaturirà la cosiddetta sindrome di Mr. Grey, cioè fare questo paragone con la propria vita sessuale, non trovarsi all'altezza di questo personaggio così controverso, così affascinante per l'immaginario erotico femminile. Comunque, quindi dice, il fatto di avere una figura ormai così popolare con cui raffrontarsi può svilire la normalità della propria vita di coppia. Quindi comunque lui suggerisce anche di affrontare assieme la sindrome di Mr. Grey con la propria compagna. E quindi, ad esempio, tu sei là la sera a leggerti un libro qualsiasi della tua compagna, e vi confrontate dicendo: non importa se tu non sei un miliardario solitario, ma vabbè, facciamo lo stesso, cioè. La sindrome di Mr. Grey bisogna usare. Tra l'altro ho letto un articolo in cui hanno fatto una rassegna delle cose più strane accadute e trovate nei cinema dopo la visione di 50 sfumature di grigio. Profilattici usati, scatole di manette, giocattoli erotici, i sex toys, esatto. Hanno raccontato di donne che si toglievano le calze nelle scene clou, si bendavano e cominciavano a masturbarsi. A che ora lo fanno sto film? Film del film. È io che non vado al cinema. Che festa. Ragazzi, c'è che c'è qualche un tweet, commenta anche tu la tua sindrome da Mr. Grey, com'è, come non è, ti senti più o meno all'altezza di questo grande, grande, grande personaggio della letteratura moderna e oltre, questa grandissima trilogia. Non si chiama così. Ragazzi, letteratura per under 12, ma voglio dire, è sempre letteratura, non è che bisogna, una volta andava di moda Harry Potter. È cambiata solo la bacchetta. All'assurdo. Cosa devo sentire? Come è mentale? ragazzi, non sono non sono capita, è meglio così. Quindi ragazzi, commentate, c'è una che c'è il back.it per commentare queste notizie, il back.it per vedere tutte le puntate della cena. Adesso ci rilassiamo, perché dobbiamo rilassarci, dobbiamo affrontare con noi stessi la sindrome di Mr. Grey, e quindi lo facciamo con un piccolo spazio musicale, tra poco con la cena dei regimi. Set me up in flames. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini con la classifica di questa settimana, una classifica che va a toccare, come abbiamo accennato poco fa, comunque a questi che sono possono, a volte ci si confronta con la vita e non ci si trova esattamente all'altezza di quello che avevamo sperato. Quindi questi sono i 10 possibili fallimenti che devi affrontare nella tua vita, delle cose che un po' tutti avremmo voluto realizzare o fare e spesso, diciamo spesso, non riusciamo a fare. La classifica è basata su un modello abbastanza americano, quindi comunque è d'oltre oceano. Alla numero 10, possibili fallimenti nella vita, diciamo, di un americano, è non essere andati in palestra. Questo mi ritrovo. Diciamo sempre, andrò sicuramente, mi rimetto in forma, eccetera. Dai, il famoso lunedì che non arriva mai. Però poi è per molti, diciamo, che resta poi questa idea aleatoria, questa cosa che non si realizza mai. Non funziona. Cioè, regini, poi hai un input in più per iscriverti. Alla numero 9, ragazzi, possibile fallimento è non riuscire a smettere di fumare o bere cose gassate o alcoliche, insomma questi piccoli vizi che si hanno, chiamiamo anche dipendenze, che si hanno con queste cose. Quindi ad esempio fumare, bere bevande gassate, caffè, bevande alcoliche e via dicendo. Io ho smesso di bere caffeina e taurina completamente. Ce l'hai fatta, ne sei riuscito, ne siamo sicuri. Ma caffè ogni tanto. Sì, anch'io. Tu sei zitto. Stessa cosa, però ricordo sempre che una volta per una settimana sono riuscito a non bere caffè e ce l'ho fatta e sono ancora vivo per poterlo raccontare. Per una settimana, pensa che grande sforzo, e comunque posso smettere quando voglio. Sì. Cose irrinunciabili potrebbero essere l'alcol, assolutamente una cosa a cui si rinuncia, oppure i dolci, il mangiare bene, no? Anche queste cose. Rinunciare all'alcol sì, ma quando si è in montagna che c'è la neve bisogna bere rum e per scaldarti. Rum e latte. vedi, rum e latte. Sai quante ricerca. Volte me l'ha fatto mia foto? Quindi tu dici in montagna c'è anche questo effetto. È perché si riscalda, no? Cioè. Ma mica tanto. No, certo, per dare una cosa, una dimensione. Perché è freddo. Una scusa in più per chi vuole un attimo spararsi il rum. Ragazzi, al numero 8. Anche questa è una cosa, e poi sono quelle cose che uno dice sempre, sì, sarebbe meglio ma non lo fai. Non aver dato retta all'omeopatia e alla medicina alternativa. Noi spesso ci proponiamo di, diciamo, tagliare un po' i rapporti con queste medicine moderne, tutte queste pillole, queste cose particolari. Aspetta, aver dato retta o non aver dato retta? Non aver dato retta, cioè restare legato al... all'audin appena il mal di testa. Quindi io dovrei cadere nell'omeopatia, giusto? Là, quello che molti si prospettano è comunque usare dei rimedi naturali, che comunque esistono. Cioè, ad esempio, per rilassarti potresti farti un infuso di Xanax. Vai. No, così si fa. Compare potente alla grande. Altro che medicina, droga. Tu devi drogarti. Sei rimasto alla camomilla. Devi drogarti l'aspirina. Sei rimasto alla camomilla. Perché il proposito della camomilla. Poi nella realtà si fa l'oxana. Vediamo il risultato. Si fa così. Si fa l'omeopatia. Il risultato è chiaro. Io ho provato la camomilla con il finocchio insieme. Vedi la saggezza. Ma questo non è un mappatia, è la camomilla. Sì, ma nel senso quei rimedi naturali che dovrebbero fare. Ma delle robe così. Ma ragazzi, andando avanti, al numero 7, sentirsi persi o bloccati per un lasso di tempo indefinito. Cioè capita ogni tanto anche di rilassarsi la mente e poi essere anche un po' in colpa quando si lascia un po', si vive un attimo sovrapensiero, diciamo, questi stati mentali un po' di relax. Capita, anche gli americani sentono questa pressione su questo tempo morto, diciamo così. Alla numero 6, per chi è cresciuto negli 80-90, è fantastico essere stati imbambolati alla pessima musica dei vostri tempi. Quella musica di My Body's Love. Adesso ritorna alla tua memoria e ti fa sentire abbastanza deficiente. Quindi il rimpianto era, pensa tu, potevi farti 2 ore di Beethoven e invece oppure dai Straits invece ti ascoltavi, ascoltavo Bomba, il Chiquito ad esempio, e lo ballava pure. E poi c'erano tutte quelle, queste tormentoni estivi che comunque hanno regnato per anni e anni. Alla numero 5, sei stati legati alle grandi catene di ristoranti, fast food e negozi, il cibo, quindi questa tentazione di dire no, da adesso mangio sano, da ho chiuso con McDonald's, eccetera, e poi però l'Happy Meal te lo spari, eccetera. Per gli americani è particolarmente impegnativo perché loro tra l'altro hanno questa cultura e quindi comunque l'idea sempre è di mangiare sano, però poi ci si lascia anche un po' andare a volte. Americani ovviamente per loro... E raggini il martedì oppure durante le feste con Satizio. In allegato alla numero 4, ragazzi, non aver abbracciato il movimento del fai da te. Questo assolutamente sì. Tutte quelle volte che noi diciamo prenderò una porta, ne farò dei tavolini, e non lo facciamo. La prossima ce l'abbiamo fatta. Proprio per venire incontro, per venire incontro alla nostra voglia di fai da te nella vita, abbiamo fatto questi tavolini. Però in generale comunque è vero. Tu vai su internet, c'è gente che dà una scala, tira fuori una libreria e dici che fesseria, potrei farlo anch'io. Non ti metti mai a farlo. Se ti metti a farlo sbagli qualcosa, per cui viene sempre sbilenca, o comunque l'effetto non è quello. Però il proposito resta sempre quello: passare al movimento del fai da te, che può essere anche utilissimo. Soprattutto nel nord Europa si usa molto quest'idea di riciclare il mobilio, di riverniciarlo, eccetera, per farlo nuovo. Compo meno, andiamo dall'IKEA che del nord Europa a comprare i mobili, è una cosa veramente perversa. Quante volte anche tu che sei a casa hai detto, anziché stare a fare davanti al computer, accettare, vorrei crearmi una sedia con un pallet ad esempio, con una pedana, quello che è, eccetera. Ecco, non farlo adesso perché devi continuare a guardare la trasmissione, ma dopo alla fine puoi scrivere a cianocibac.it e dirci il tuo progetto mai realizzato, magari nell'ambito del fai da te. Anche voi ne avete avuti? C'è stata qualcosa che avete tentato di costruire? Non mi viene. È il polpo dei palloncini. Ma io non però ti sono usciti. Il lucetta ha funzionato. Ah no. Ci ho provato. Li vedi là su internet, questi lucinari, queste cose belline, questi centrotavola pazzeschi. Ce la farò invece niente, ragazzi. Alla numero 3, scottantissimo, non aver mai incontrato la propria anima gemella. Quindi capita questa idea. Ognuno di noi ha le sue teorie in merito. In alcuni casi anche un po' disgraziate. Però comunque su questi miliardi di persone non essere mai riusciti a incontrare la persona giusta. E comunque anche questo per gli americani è molto importante, pensando anche che il 55% della popolazione mondiale mondiale è femmina, quindi è femminile. Pensa tu, fare questi calcoli e dire non ho trovato mai la persona giusta può essere un rimpianto, chiamiamolo così, ed è molto diffuso, ma godetevi la vita e basta. direi io. Alla numero 2, importantissimo, cioè fondamentale nella società dell'immagine, non essere diventati famosi. E questa è una cosa che si sente moltissimo, cioè ormai essere l'apparire, la fama è comunque un elemento talmente forte che per gli americani è addirittura la seconda preoccupazione nella vita. Ed è singolare il fatto che, poi lo vedremo, cioè questo qua è al di sopra del non trovare l'anima gemella. Cioè è più importante l'essere famosi per loro che se diventi famoso automaticamente trovi l'anima gemella. Può essere anche questo. Non è l'anima gemella. Non è l'anima gemella, sono altre situazioni che comunque possono piacere. Alla numero uno, ragazzi, inutile dirlo, la grande preoccupazione degli americani è non diventare ricchi. Non diventare ricchi. Cioè, non è lo stesso così diventare famoso. No, perché comunque il famoso non è perché poi diventi tipo Mickey Rourke, cadi in rovina, poi ti riprendi, poi Mickey Rourke. Meglio poveri a vita. C'è anche questo esempio negativo. Invece tu diventi ricco. Ricco, quindi come si diventa ricchi? Cliccando sulle email che ti manda, come si chiama? La tizia russa, sì. Si chiama. No, direi di no. Però scrivendo le email che propongono una tizia russa da sposare in cambio di circa 400 euro in quella maniera. Però c'erano anche le email tipo sono un principe e tu sei l'ultimo discendente della famiglia Tot e quindi hai ereditato un casino di soldi, scrivi qui il tuo numero di carta così ti rimandiamo. Fantastico. E la gente ci cascava. Ovviamente sì, perché questo è il bello del phishing online, bisogna stare molto attenti ragazzi. Però non diventare ricchi, la grande paura, il grande timore della società moderna è di non avere abbastanza quattrini per realizzare i propri desideri. Oppure un'altra cosa che potrebbe turbarvi potrebbe essere non riuscire a fare niente. Vedi? L'Andrina è sempre la voce della ragione, cioè non riuscire a fare niente, nulla nella vita. Uno sfaticato che passa il tempo così, è giusto, l'ho sintetizzata meglio così. La vostra grande paura, cosa non avete, avete paura di non riuscire a portare a termine, di non fare, o cosa vi siete proposti e ancora è là? Un libro, un film da vedere, la dieta da fare il lunedì prossimo, il viaggio, oppure imparare a suonare un qualsiasi strumento musicale, un'altra cosa classica. Scrivila a cenacocciolobac.it e commenta con noi questa puntata. Ragazzi, il bac.it per rivedere tutte le puntate precedenti, tutta la trasmissione, scoprire come essere commensale alla cena dei regini, aperta a tutti con la condivisione del cibo. E noi torniamo settimana prossima alla cena dei regini, grandi ospiti, grandi novità, grandi notizie, una nuova classifica. E ragazzi, continuateci a seguire alla cena dei regini. Un applausino a noi stessi che ci commentiamo. Ciao!